Thank you. iscrizione al concorso potranno essere richiesti alla delegazione. Un contracadet von Helmut Lachenmann. Es spielt das Südfunk-Sinfonieorchester. Die Leitung hat Michael Wieland. Thank you. bei der